Salve a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata numero 2 di A Tavola con Fabiola. Questa è Radio Big World e io sono Fabiola. Questa è la ricetta di oggi, carpaccio alla vinaigrette. Ingredienti per 4 persone: 500 g di filetto di manzo, rucola, maggiorana, 50 g di aceto bianco, olio extravergine di oliva, sale e pepe. In una ciotola, con una frusta da cucina, sbattete l'aceto con un pizzico di sale fino a quando si è sciolto. Versate a filo 150 g di olio e continuate a sbattere fino ad ottenere un'emulsione omogenea. Aggiungete il pepe. Con un coltello tagliate a fette e sottili il manzo. Mettete il carpaccio su un letto di rucola. Condite con la vinaigrette e aromatizzate con la maggiorana. Buon appetito! Grazie ai radioascoltatori di Radio Big World. Questa era la puntata numero 2 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e vi do appuntamento alla prossima puntata.